Sì, grazie Fabrizio. Il sottotitolo dell'incontro di oggi è Resistenze attive, pratiche concrete, potenza dell'autogestione e auto-organizzazione delle comunità. Stasera doveva essere qui con noi Luca Bà. Luca Bà noi l'abbiamo conosciuto in Val Susa e poi l'abbiamo conosciuto ancora meglio alla Terratrema dell'anno scorso perché è venuto a portare le istanze, a raccontare la storia e quello che stava succedendo in Val Susa, quello che sta succedendo in Val Susa. E lui è un agricoltore. E niente, oggi non è qua perché non è riuscito a venire, però ci ha scritto una lettera che ha chiesto di leggere e cerco di farlo con la mia voce e con la stanchezza di questi giorni. Però secondo me vale la pena, insomma. La terra trema, Milano, 22 novembre. Purtroppo non posso essere lì con voi, ma provo con pensieri e idee scritte a dare il mio contributo a questa iniziativa a cui sono stato invitato. Per questo intanto vi ringrazio e vi auguro buone riflessioni. Ho sempre inteso la mia esperienza all'interno della lotta No TAV in Val Susa come naturale, proseguimento del mio impegno di vita verso un rapporto armonico, di rispetto e di simbiosi con la madre terra. Non può esistere, a mio parere, una scelta di vita agricola indirizzata alla sostenibilità che prescinda dall'occuparsi di quello che la società capital consumista sta facendo per distruggere la natura e la biodiversità del nostro pianeta. Questione sociale e ambientale sono strettamente collegate e la situazione che stiamo vivendo in questo periodo storico lo dimostra. Per questo ormai si sta diffondendo la consapevolezza che il significato della contesa in Val Susa vada oltre la semplice costruzione di un treno. In gioco ci sono interessi economici giganteschi, ma anche lo scontro tra due modi opposti di vedere il mondo e la volontà di imporre ad un territorio scelte urbanistiche che mirano ad aumentare il controllo sulle popolazioni, limitando gli spazi di libertà. Ecco perché le grandi opere portano con sé un apparato di militarizzazione e repressione del dissenso. Questo sta accadendo dalle nostre parti, ma il movimento resiste e prosegue il suo cammino, fatto ormai di molteplici iniziative e progetti paralleli che spaziano in diversi settori della vita politica, culturale ed economica del territorio valsusino. Il presupposto che ha reso possibile tutto ciò è il tessuto comunitario che il movimento ha ricostruito attorno a questa lotta. Lo stare insieme e il sentirsi parte di una qualcosa ha dato modo alle persone di esprimersi e incominciare un percorso, sì denso di problemi e difficoltà, ma anche ricco di soddisfazioni e prospettive interessanti. Il grande insegnamento che ho vissuto e che vi porto come contributo è proprio l'importanza della costruzione dello spirito e di contesti comunitari come basi di partenza per immaginare e praticare quell'altro mondo possibile che tanto auspichiamo. Tutto ciò risulta più facile e praticabile a partire dalle lotte reali presenti sul territorio, dove il senso di emergenza dovuto a qualche progetto nocivo in arrivo o ad una forte prevaricazione rende più semplice la messa in atto di quelle forme di rottura del vivere alienato da cui prende il via il viaggio verso il cambiamento. Così è stato in Val Susa con l'esperienza dei presidi, nei blocchi e dietro alle barricate, ma ciò si può anche notare un po' ovunque dove nascono e crescono le lotte. Quindi, se da un lato non possiamo esimerci di portare avanti buone pratiche quotidiane e progetti per l'alternativa, in parallelo non ci resta che mettere sabbia o terra negli ingranaggi del potere. Buona fortuna a tutti noi. Luca Bà, Cels, Val Susa, 22 novembre 2012. Secondo me era importante, almeno personalmente, a tutti noi della Terra Trema, questa lettera ha un po' sintetizzato lo spirito per cui abbiamo fatto questo incontro e per cui ci ostiniamo a fare la Terra Trema. La Terra Trema, tra l'altro, è nata proprio così, insomma, ad Abbiategrasso, in un piccolo centro sociale di periferia, di provincia, proprio su istanze come quello della Valsusa, era un progetto infrastrutturale che ancora adesso ci cala sulla testa, il collegamento tra Malpensa e Milano, di una superstrada, e lì abbiamo incontrato gli agricoltori, lì abbiamo ragionato sulle nostre terre, perché alcuni di noi sono agricoltori, e da lì si è innescato poi il desiderio di creare nuovi immaginari, nuove narrazioni come queste e di ragionare sul significato di essere contadini, coltivare la terra, di vivere un territorio e rispetto a questo continuare a buttarle sul tavolo, portarle in uno spazio come Leo, in una città come Milano. Adesso lascio la parola a Claudio Solito della Viranda, Roncola d'Oro 2011, che è il premio più ambito dell'enogastronomia in Italia, cioè il premio che viene assegnato dai partecipanti della Terra Trema che decidono di mettere la scheda nell'urna. Claudio soprattutto è un vignaiolo storico che dal primo anno, dal primo giorno con Veronelli e con i compagni di vari centri sociali sparsi per l'Italia, la Chimica di Verona, il Magazzino 47, il Leoncavallo, il Forte Predestino, il Folletto, ha iniziato questa avventura e niente. A te la parola, Claudio.